Storie italiane. Il principe perfetto. C'era una volta, in una terra lontana, una bellissima principessa. Viveva in un grande castello e aveva molti servi per servirla. Ma la principessa non era felice, perché un incantatore si era innamorato di lei. Il crudele incantatore voleva possedere la principessa, così travestito da gatto gigante, la seguiva ovunque. Solo un principe avrebbe potuto rompere la maledizione, calpestando la coda del gatto gigante. Solo così la principessa sarebbe stata libera. Non molto lontano, viveva un bel principe che aveva sentito parlare della bella principessa. «Questo è terribile! La principessa deve essere liberata! Ministri, non informate nessuno del mio arrivo! Lo diranno al gatto! Calpesterò la sua coda mentre quell'incantatore starà dormendo profondamente!» Ed è proprio quello che successe. Al calar della notte, mentre il gatto gigante dormiva profondamente, il principe calpestò la coda. E improvvisamente... «Come ti permetti?» «Lascia la principessa in questo istante! È un ordine!» «La libererò! Ma chi libererà te? Maledico il tuo figlio primogenito! Egli nascerà con un enorme naso! E non diventerà re se non riuscirà ad accettare quel nasone! Perché il tuo regno potrà avere solo un re veramente perfetto!» «Questa maledizione non ha alcun senso», pensò il principe. «Mio figlio si renderà immediatamente conto di avere un enorme naso. E un grande naso non è un difetto. Non devo preoccuparmi per questo.» Quella mattina la principessa si sentì la donna più felice del mondo. L'intero regno si rallegrò perché il crudele incantatore era sparito. La principessa sposò prontamente il principe. Il principe era così felice di aver sposato la bella principessa che si dimenticò completamente della maledizione e non ne parlò mai con nessuno. Gli anni passarono e la principessa, che ora era la regina, diede alla luce il loro primo figlio. Il principe Giacinto nacque mentre il re era via per lavoro. Ma la felicità non durò a lungo, perché la regina non sopravvisse. Il regno non si era ancora ripreso dalla sua perdita che un'altra brutta notizia arrivò. La nave del re era affondata in mare. Il principe Giacinto era ora l'unico erede al trono. Ma c'era qualcosa che non andava nel principe. «Oh cielo! È un naso normale! Metà della sua faccia ne è coperta!» «Oh, non dirlo! Lui è il nostro futuro re! Dovremmo assicurarci di non parlare mai del suo grande naso! Niente deve mettere il nostro principe in imbarazzo! È nostro dovere non farglielo notare mai e poi mai!» E così i ministri e i cortigiani decisero di nascondere il grande difetto sul volto del principe. Ogni foto di uomini con un naso regolare venne rimossa dal castello. Ogni servitore, maggiordomo, custode fu avvertito. Nessuno avrebbe dovuto nemmeno menzionare il grande naso. Tutti dovevano lodare il principe e il suo enorme naso. A scuola gli insegnanti arrivarono persino a modificare la storia. Mostravano solo i guerrieri che avevano il naso grosso. Tutti ridevano di quelli che avevano il naso regolare. I ministri fecero tutto il possibile. Chiesero perfino ad alcuni degli uomini più belli del regno di indossare un grande naso finto ogni volta che entravano nel palazzo. Il principe crebbe sentendosi orgoglioso del suo grande naso e anche ammirandolo. Il difetto era nascosto. «Mio putato principe, è giunto il momento della tua incoronazione, ma tu sei ben consapevole delle regole. Dovrai sposarti per ereditare veramente il trono.» «Capisco, ministro. Ho intenzione di chiedere al re di Bensford la mano di sua figlia. Lei è davvero la principessa più bella. Lei ha un naso piccolo, ma io ho grande cuore. Accetterò il suo difetto. Molto bene. Eh? Che bello, preparerò rapidamente gli accordi. I cortigiani e i ministri erano così abituati a mentire sul naso del principe che si erano dimenticati di informare il re di Bedsford del difetto. Il re accettò il matrimonio, ma a quel punto... Oh, mio principe, mio potente principe, la principessa di Bedsford è stata rapita. Ci sono notizie che si sia già una maledizione su di lei. È tenuta in ostaggio in un palazzo di cristallo. Bedsford è in cerca di lei adesso. Cosa? Chi ha avuto il coraggio di farlo? Preparo l'esercito. Lo stesso cercherò di trovare la mia principessa. E così il principe partì con i suoi uomini. Mentre si trovavano nel mezzo del deserto, una tempesta di sabbia separò il principe dai suoi uomini. Quando si svegliò, si trovò in una terra straniera. Camminò e camminò, ma non riuscì a trovare nessuno. Ah, sono affamato e molto, molto assetato. Cosa faccio ora? Oh, aspetta, è una casa! Signora, ho perso la strada. Posso avere dell'acqua da bere e qualcosa da mangiare? Oh, ovviamente. Sembri stanco. Vieni dentro. Aspetta. Quello è il tuo naso? È così enorme. Intendiamoci, non ho mai visto un naso così grande su nessun uomo, vivo o morto. Cosa? All'improvviso ha iniziato a parlare così tanto. E il mio naso non è enorme? Il suo naso è così piccolo. Ma ho fame e non devo discutere con lei. Signora, sono davvero affamato. Posso avere qualcosa da mangiare? Oh, certo. Devi essere anche molto assetato. Non hai detto che hai sete? Ah, chiederò ai miei uomini di servirti comunque dell'acqua. L'acqua è estremamente vitale per i nostri corpi. Sai, mi dispiace, ma il tuo naso continua a distrarmi. È sempre stato così grande? Perché stai ancora aspettando fuori? Sembri stanco. Non vuoi entrare? Sono davvero stanco? Ma presumo tu voglia parlare nel mio naso piuttosto che invitare un ospite assetato e affamato all'interno della casa. Oh, parli troppo. Vieni dentro. Ah, parlo troppo? Io? Dio mio, solo perché ho fame. Quando il principe entrò nella capanna, rimase sorpreso. La capanna era decorata con l'antiquariato migliore. Sembrava così ricca. Il principe fu preso alla sprovvista. Questa è la tua casa? Non è niente di meno che un palazzo. Tu chi sei? Oh, mi manca casa mia, così ne ho costruita una da sola. Vedi, io ero la regina di una terra lontana. Qualche anno fa ho perso la strada mentre partivamo per andare a caccia. Fortunatamente avevo i miei gioielli e una manciata di uomini con me. È una storia divertente, davvero. Non mi accorsi di aver preso la strada sbagliata e andai sempre più in profondità nel bosco. Quando uscii, vidi questo posto. In quel momento stavo raccontando una storia ai miei uomini. La storia di un re e di un gigante, enorme gatto. Ma attenzione, il gatto non era niente in confronto al tuo naso. Oh, la smetterà mai di parlare del mio naso? Ha perso la strada mentre stava chiacchierando con i suoi servi. Non capisce che il suo difetto di parlare troppo l'ha portata qui. Vuoi sentir parlare dei principi del gatto gigante? Preferirei... Oh, va bene, dato che insisti. Quindi... Questo gatto era davvero un incantatore che maledì il principe quando gli calpestò la coda. Oh, capisco ora. Ai servitori è stato insegnato a ignorare il difetto della regina. Parla troppo, ma gli è stato detto di non dirlo. Che è stupido. Come può qualcuno non vedere i propri difetti? Mi stai ascoltando? Com'è che il tuo naso non ti disturba mai? Ora che il principe non aveva più fame, non poté più sopportare. Signora, ti chiedo di smettere di parlare del mio naso. È assolutamente scortese. Ti ho detto che chiacchieri come un pappagallo o che hai un naso tremendamente piccolo? Il mio naso mi rende bello, ne sono orgoglioso. Grazie per il cibo, partirò per trovare la mia principessa. Presumo che tu non abbia lo specchio nel tuo possante palazzo. E anche se trovi la principessa nel palazzo di cristallo, come spezzerai la maledizione baciandole la mano? Il tuo bel naso non si intrometterà? Scommetto che non puoi vedere i tuoi stessi piedi con quella cosa enorme sul tuo viso. Sono un principe rispettabile! Non perderò tempo con un'insignificante discussione con te. Me ne andrò in questo istante. Questo è strano. Lei ha ragione. Non riesco a vedere i miei piedi. Deve essere normale per molti potenti re e regine. Cosa può saperne lei? Non si è nemmeno resa conto di avermi indicato il modo per spezzare la maledizione. Sulla sua strada, il principe si imbatté in un mercato. Molte persone che passavano indicavano il naso del principe e ridacchiavano. Questo è strano. Tutti qui hanno un naso così piccolo e loro trovano il mio naso strano. Questo intero regno è strano. Ma il dubbio aveva cominciato a farsi strada nella mente del principe. Tutti avevano un naso piccolo, ma nessuno sembrava brutto per questo. Quando raggiunse il palazzo di cristallo, chiamò la principessa. Principessa, sono io, il principe Giacinto. Sono qui per salvarti. Ah, eccoti finalmente. Ma cos'è quello sul tuo viso? È il tuo naso? Possiamo parlare del tuo piccolo naso più tardi? Fammi rompere la maledizione. Il principe scalò il castello e prese la mano della principessa. Mentre stava per baciarla, realizzò che le sue labbra non potevano toccare la mano della principessa. Ah, mi dispiace, principessa. Non posso rompere la maledizione. Non l'avevo capito prima. Il mio naso è davvero enorme. Il mio intero regno mi ha fatto sentire perfetto con questo naso. Ma è un difetto e devo conviverci. Aspetta, tu sei la solita vecchia che ha tanto riso del mio naso. Come sei arrivata qui? Dove sono i tuoi servi? Io non sono una regina, mio principe. Ho dovuto travestirmi per farti vedere il difetto che è in te stesso. Il tuo regno è stato maledetto da un incantatore. Dovevi davvero accettare il tuo difetto per diventare il re. E ora hai rotto la maledizione. Non hai visto il tuo naso, mio principe? Oh cielo, il mio naso? Oh, adesso è di una taglia normale. Quindi non ho più difetti ora. No, figlio mio. Abbiamo tutti dei difetti. Non hai spezzato la maledizione rimpicciolendo il tuo naso. L'amor proprio è davvero importante. Ma troppe cose ci impediscono di conoscere i nostri difetti. Otteniamo ciò che vogliamo veramente solo quando identifichiamo i nostri difetti, proprio come hai trovato la tua principessa e hai rotto la maledizione liberando il tuo difetto. Solo quando vediamo i nostri difetti diventiamo perfetti davvero. Il principe e la principessa tornarono al regno e si sposarono. Il regno ora aveva un re davvero perfetto.